Tutto da rifare, nessuna delle vecchie discariche può essere utilizzata. Dopo aver fatto ricontrollare dai tecnici del Genio Militare tutti i vecchi siti, il commissario De Gennaro ha dovuto cancellarli dal piano che aveva preparato per uscire dall'emergenza rifiuti, infiltrazioni di percolato ovunque, discariche abusive sottostanti e seri rischi di crolli. È quanto accertato dai tecnici che hanno rilevato una situazione molto diversa da quella indicata dalle carte. De Gennaro si è visto costretto a fare dietro fronte e così Pianura, Villaricca, Difesa Grande, Parapoti, Louttaro non potranno riaprire. Questo vuol dire che si dovranno individuare nuovi siti in territori non contaminati e bisognerà fare presto perché l'emergenza che da mesi ha messo in ginocchio le province di Napoli e Caserta potrebbe raggiungere nuovamente la fase più acuta. Il piano del commissario De Gennaro prevedeva di ripulire le città entro la metà di aprile, ma gli ultimi eventi potrebbero allungare pericolosamente i tempi. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli.